Vedo allora che l'ufficio pratiche semantiche del Polo ha tirato fuori dal cappello Prodinotti. Prodinotti per designare, svalorizzandoli almeno nelle intenzioni, i seguaci di Romano Prodi. E la soluzione merita una riflessione. Il morfema terminale otti, e otto al singolare, in ambito di lotta politica ricorda molto gli ugonotti, ovvero il nome con cui venivano designati i protestanti calvinisti di lingua francese nel XVI secolo. Deriva da una miscela, a dire il vero, perché una miscela fra il tedesco Eidgenoss, che stava per federato, e il nome proprio di un capopopolo, tal Hugues Besançon, Ugo in italiano. Non vorrei che il subconscio del Polo, se così vergognosamente posso esprimermi, perché per parlare di un subconscio occorre pur sempre un conscio, non vorrei che il subconscio del Polo sveli con questo battesimo la segreta speranza di far finire i Prodinotti come gli Ugonotti, perché gli Ugonotti, come noto, finirono malissimo e piuttosto alla svelta. Che sono sfogliati. Le cose più o meno sono andate così. Caterina de' Medici sposa Enrico II e diventa regina di Francia, detta anche la regina nera per via di certe sue piccole debolezze, che non riguardano la biancheria, ma la sua abituale frequentazione di maghi ed astrologi, la più nefasta delle quali avvenne nel 1560. In quella circostanza pare che Nostradamus in persona officiasse un rito esoterico fra specchi scuri e ruote che giravano, e che soprattutto giravano male per Caterina, cui apparve un futuro foschissimo con i suoi figli nei guai fino agli occhi e l'abborrito Enrico di Navarra al potere al loro posto. Da lì tutti i tentativi disperati di mutare il corso del destino profetizzato, fra i quali quella notte di San Bartolomeo in cui 10.000 protestanti vennero massacrati. La vicenda è raccontata e reinterpretata da Giorgio Galli nella Magia e il Potere, un libro tutto dedicato a documentare le influenze della cultura esoterica sulla classe politica occidentale. È un libro che, sagacemente, non trascura neppure Romano Prodi, il quale nel 1978, durante il sequestro di Moro, partecipa ad una seduta spiritica in cui si chiede allo spirito dell'onorevole La Pira di dare una mano per ritrovare lo statista democristiano. L'episodio è noto, ma chissà perché, come si chiede Galli, nessuno, neppure gli avversari politici, glielo ricordano mai. La Pira in spirito è più disponibile che in persona e dice loro: gradoli, Prodi e compagni corrono da chi di dovere a raccontare la lieta novella, e chi di dovere corre nel paese di gradoli, e soltanto dopo, quando è più che tardi, scoprono che Moro era tenuto prigioniero non a gradoli ma in via gradoli a Roma, fra appartamenti peraltro curiosamente affittati ai servizi segreti dello Stato. Oltre che degli Ugonotti, comunque, il battesimo in Prodinotti dei seguaci di Prodi approfitta di una valenza semantica casuale ma ineliminabile, perché è Prodi. Infatti nel nuovo nome diventa una radice, designante quel po' di velleitarismo infantile che aleggia nell'avanti miei Prodi di salgariana memoria, per chi ancora può vantarne una. Credo che anche grazie a quest'ultimo elemento Questo nome l'abbia avuta vinta alla fine rispetto ai possibili nomi concorrenti ugualmente potenzialmente svalorizzanti. Per esempio, Prodinotti, nonostante il significativo episodio della seduta spiritica, è stato preferito a Prodinetti, che più che del finale Inetti, che avrebbe pur potuto godere del ricordo di André Chapuis, in arte André Did, 1884-1931, meglio noto agli italiani più propensi al comico che all'esoterico, con il nome di Cretinetti. (Susurra)